così. Anche no. Allora, praticamente sono tutte cose che avete già sentito brillantemente dal professor Pastore, dalla professoressa Bambieri. Cerchiamo di arrivare rapidamente all'argomento vertebrale, che sono 5-6 cose importanti da dirvi. Va bene, allora, per quanto riguarda aneurismi, sapete, aneurisma significa dilatazione. Quando questi aneurismi si trovano nel cervello, le arterie viaggiano a pressione di 125-130 mm di mercurio. Un millimetro di mercurio corrisponde a circa 13 mm di acqua. Quindi, quando noi si rompe questa aneurisma, si versa sangue a pressione elevata in un punto dove non può esserci questa pressione. Pronto? Dimmi, Federica. Improvvisamente dentro questa palla chiusa arriva una pressione di 125 mm di mercurio, anzi di più generalmente, perché si rompono questi aneurismi sotto sforzo, sotto fatica, eccetera. 150 mm di mercurio, 160, quindi c'è una devastazione. E noi siamo chiamati chirurgicamente in due sistemi: o l'occlusione per via endovascolare, che oggi è una cosa condivisa in tutto il mondo, tra l'altro è un'invenzione che ha fatto un collega mio di studio qui di Roma, il professor Guglielmi, che in tutto il mondo è nominato, oppure precedentemente in casi difficili si apre la testa e si va a mettere una molletta di acciaio a chiudere questa dilatazione che si rompe, mettere un sigillo metallico, perché non possa uscire più sangue. Poi, aprendo la testa, laviamo tutto il sangue in più, portiamo la pressione a livello buono e, se c'è bisogno, lasciamo un drenaggio per deliborare. Quindi più pressione, con il drenaggio viene ad essere eliminata, perché togliamo una dei tre componenti che produce pressione, liquor. Si chiama? Guglielmi, sì, Guido Guglielmi. 62 anni. L'encefalo, a volte l'aneurisma rarissimamente è un angioma che prende anche il midollo, si può rompere anche l'altro, ma la pressione è di meno l'altro. Però non capita a livello del medico, anzi, quando il sangue è molto abbondante, oltre che verniciare tutta la testa, entra dal quarto ventricolo verso il cervelletto fino a riempire i ventricoli. Quanti sono i ventricoli cerebrali? 4. Allora, il sangue può entrare o direttamente bucando il cervello perché c'è pressione e riempie i ventricoli, oppure riempie il cuore intorno al cervello e poi entra attraverso il quarto ventricolo, riempie i ventricoli, perché dove trova spazio il sangue vuole andare. È quello che mi chiedevo, gli aneurismi avvengono quasi sempre a livello cefalico o anche all'interno? No, all'interno dei ventricoli ci sono dei capillari, cioè dove viene prodotto il liquore è come un gomitolo di capillari, non ci sono pressioni elevate, non ci verifica questo fatto qua. Se no la sonda dovrebbe perforare il parenchima cerebrale. Da fuori perfora il parenchima cerebrale. Per esempio, se è un aneurisma della cerebrale media che nutre il lobo temporale, là si rompe, buca il lobo temporale e si apre nei ventricoli. Capito? Quindi è tutto un problema. Vedete quanti grande l'aneurisma? Questo qua c'è pressione 150 mm di mercurio, qui c'è zero pressione, qui c'è il cervello, questa è la carotide cerebrale media, cerebrale anteriore, aneurisma, si rompe, fa un grande ematoma, buca e va nei ventricoli che stanno qua. Vedete tutto il sangue che circonda il cervello, questo bianco, il quarto ventricolo che ha un po' di sangue dentro, però non è massiva, a volte è proprio qui il quarto ventricolo diventa grande perché è pieno di sangue, da fuori vuole entrare dentro al sistema ventricolare. E questi sono i sintomi, noi classifichiamo, prima non operavamo i casi 5, cioè comatosi, e c'è una grande mortalità, però abbiamo visto che se sei aggressivo e sei veloce, apri il ventricolo, fai uscire tutto il sangue da dentro i ventricoli, lasci un drenaggio, chiudi l'aneurisma, togli l'osso, qualche volta c'è una percentuale bassa, però qualcuno si salva. Quindi, a volte si salva discretamente. Quindi la mortalità è bassa, con la classe 1 significa che c'è soltanto un po' di mal di testa. Eccola qua, un mal di testa micidiale, lucidità nucale come nelle meningite. Va bene. Poi lentamente questo sangue viene riassorbito. Sapete il liquido dove viene riassorbito? Se sedimentosi, nella complessità, la formazione di pacchioni. Però questo sangue tende a ostruire questo filtro. E qui il liquido viene prodotto perché una delle caratteristiche del cervello è che anche se c'è un'ostruzione al liquore, il cervello 400 al giorno li deve fare per forza. Quindi, collega, quanti cc si fa di liquore ogni giorno? Domanda d'esame, vado basso. Stiamo attenti. Allora, sono 400. Quindi, però, anche se ostruisci la via di scarico, il cervello generalmente, la natura è quella che quando trova un ostacolo riduce, no? Il cervello sempre quello, allora accende il cervello, quello continua a produrre 400, e si forma l'idrocefalo, chiamato aresorptivo, cioè non si riassorbe. Va bene. Allora, questi sono casi che interessano poco, però sono quelli che vi possono arrivare a voi con emiplegia, perché una carotide aterosclerotica può far partire un embolo, chiude un'arteria importante come la cerebrale media, abbiamo l'ischemia di quella parte, l'emiplegia, e poi piano piano, voi sapete che la gamba rigida tende a recuperare la mano o la parola, se a sinistra recupera molto di meno. Mi interessa in questo senso perché abbiamo la malattia della carotide. Noi possiamo avere predisposizione ad un aumento di colesterolo nel sangue, oppure mangiamo male, poi ci muoviamo poco, lo consumiamo poco. Allora, voi sapete che le nostre arterie, le nostre vene, i nostri capillari sono mattonati da cellule vive. Allora, quando c'è una grande quantità di porcheria, di colesterolo, anche queste cellule tendono a mangiarsele, contribuiscono a un lavaggio di questo eccesso di chilo di grasso nel sangue. Allora però che succede? Che mangiando un po' di queste gocce si gonfiano, gonfiandosi riducono il lume. Riducendo il lume, in quel punto la velocità del sangue aumenta. Più è stretto il lume, più è veloce. Turbolenza, siccome è sangue non del tutto limpido ma molto grasso, fora certi punti, si formano delle ulcere. Queste ulcere vanno ad essere recuperate dalle piastrine, formano un tappo di piastrina. Tappo di piastrina che o si calcifica o si embolizza. Se va a embolizzare un punto importante, smetti di parlare o ti viene mancanza di forza. E quindi è un processo legato a una forma di lavaggio del sangue da questo grasso, in quanto queste pareti sono vive, però quando supera un certo livello si restringe troppo il lume o addirittura si chiude, ma ci vuole anche un elemento traumatico a quel punto, generalmente la velocità. Poi sappiate che anche l'acido urico è uno degli elementi aterogenetici, perché cristallizza nel sangue insieme a tanti altri elementi salini, e forma degli aghi che in questo aumento di velocità del sangue nelle zone chiamate stenotiche ferisce l'endotelio, il quale è già panciuto e poco reattivo. Si formano questi crateri, si depositano le piastrine, partono gli emboli e abbiamo la malattia aterosclerotica. Emiplegia generalmente, oppure mancanza di parola, non parlano. Vedete qua la biforcazione di carotide, è un punto di forte turbolenza. Se cominciano i depositi, cominciano a chiudersi e poi possono partire delle placche. Quindi la vita sedentaria, di troppo vino, la glicemia alta, mangiare grasso, insomma il tipo di vita oggi non favorisce. Vedete poi dopo c'è un processo cicatriziale in cui questo grasso tende a depositare calcio e forma una guaina grassa proprio. Questa e la carotide viene aperta e si leva tutta questa parte grassa calcificata, è una specie di stampino interno, e quindi inibe il flusso ed diventa meno turbolento. Altro elemento, ecco qua, questi sono argomenti che interessano a noi, ricominciamo adesso, li finiamo e poi magari da qui ripartiamo la prossima volta e facciamo un piccolo ripasso generale. Tanto quest'anno vi trovo più preparati del solito, perché avete già fatto gli altri colleghi. La traumatologia spinale è frequente, capita spesso ai giovani, ce l'abbiamo uno adesso sopra che ha 17 anni, è caduto con la motocicletta, c'aveva la fidanzatina di 15 anni che sta in coma a San Camillo, non sappiamo chi si riprende. Lui è sveglio, però c'ha frattura di clavicola, frattura di mandibola, frattura di caviglia, mi pare anche strappamenti di vari legamenti del ginocchio, e c'ha una frattura completa della quinta dorsale. Normalmente sono paraplegici, questo non ha manco la paraplegia, quindi abbiamo il terrore di girarlo. Siamo tornati come ai vecchi tempi, quando, pur essendo paraplegici, nessuno li toccava. Cioè se capitava, come dire, tocca a te, ti è toccato a te, a quel pronto soccorso, non lo prende nessuno, manco nessuno lo prende, né a Milano, niente, te lo devi tenere là. E morivano piagati, sotto piagati, quindi e come si muore? Si muore per piaghe da decubito, febbre, malattie, tossicosi, per piaghe, diciamo, legate a catetere, quindi piaghe interne o cistiti, calcolosi, danno renale, si muore per polmonite, si muore per trombosi. E ai tempi nostri morivano pure per emorragia gastrica, perché il ragazzo di 20 anni che era libero e franco si trova da 2 mesi bloccato a letto, capisce che la sua vita è così, è tale lo stress che si rompe lo stomaco, si bucava lo stomaco. Oggi abbiamo gli antiacido, quindi queste cose non le vediamo più. Li carichiamo di antra, di prodotti contro l'acidità di stomaco, li sediamo un po' con qualche cuccia di Valium, diciamo che va tutto bene. Ma io ho visto dei giovani ventenni morire di emorragia gastrica, traumatizzati. Stanno a letto dopo 30 giorni, quindi morire di emorragia gastrica. Oggi questo non c'è più. E comunque, quando non avevano addirittura danno, si sapeva che all'epoca stavano i bambini sul letto. Con il danno invece abbiamo cominciato a usare dei letti a biscotto che si girano automaticamente, per cui venivano girati e non avevano più la piaga. Poi negli anni 80 abbiamo cominciato a operarli, quindi chiodi, barre, decompressione e rapida fisioterapia, e tutti quanti si sono rimessi in piedi. Non me ne ricordo uno che non li avete rimessi in piedi. Ci sono delle protesi, oggi ci sono addirittura delle ginocchia robotizzate, per cui da soli spostano la gamba, oppure la gamba viene abituata in estensione e poi vengono messe delle protesi alle caviglie, come delle scarpe, e loro, essendo forti agli arti superiori, riescono a deambulare, a guidare la macchina e a fare una vita normale. Quindi, invece in questo caso che abbiamo qua, siamo tornati con i vecchi tempi, perché essendo senza danno ed avendo la frattura della dorsale abbiamo paura di girarlo per operarlo, perché nel momento in cui lo giri prima lo addormenti, poi lo giri, non sai se ti tranci il midollo, per cui ci stiamo orientando a non operarlo, aspettare come si faceva 40-30 anni fa, aspettare che si consolida un po' la frattura, male, tutta storta, però il midollo non è ferito. Altrimenti bisognerebbe addormentarlo, operarlo da davanti, però c'è il cuore davanti, è problematico poter togliere pezzi di osso dietro al cuore e fissare con del cemento delle viti, non è una passeggiata, anche perché poi lui ha avuto problemi renali, c'ha piccole ferite al cervello, c'ha piccole ferite al fegato, insomma, non io diciamo sono per non operarlo addirittura, d'accordo con i parenti, perché lui muove perfettamente tutti gli arti, diciamo che è un miracolato, perché per rompere il dorsale ci vuole molto. Si rompe facilmente il passaggio tra dorso e lombare, perché il dorso è rigido con le costole, invece la cerniera con il lombare è molto mobile, è là che si spezza. Oppure, peggio ancora, si spezzano tra il torace e il collo. Là il collo è molto mobile, per cui c'è un movimento esagerato, là si spezza. Invece in questo caso la forza si è scaricata tutta quanta dentro al torace. Che avrà fatto? Io me l'immagino. È stato ribaltato dal motociclo, è caduto di schiena, piedi in alto e schiena a terra, e la testa non era tanto, non ha battuto tanto, se no no, non credo che, non so se era il casco, penso di sì, non ha battuto in iperflessione la testa, ha proprio battuto spalla piena e si è spezzato là, però non ha avuto nessun danno midollare, e quella è una zona dove il midollo è particolarmente sensibile, perché la nutrizione del midollo viene dall'arteria vertebrale dall'alto e dall'arteria di Adiachenis che sta alla nona dorsale da sotto, le più importanti. Per cui a D4, D5 si sono quasi finite queste arterie, sono le ultime ondate di sangue che arrivano sia da sotto che da sopra, quindi io personalmente ho dato il consiglio di non operarlo, ma vediamo se lo farà direttamente il direttore e andiamo avanti. Vedete, quando un frammento così entra in avanti, anzi indietro, chiedo scusa, e qui sta il midollo, no? Hai sicuramente una paraplegia. Qui siamo in dorsale. Anzi, questo è il lombare, chiedo scusa, il lombare, perché corrisponde a questo. Hanno tolto il corpo malato, hanno messo una protesi e hanno messo 4 viti a destra e a sinistra, sono 8 viti. Anche in questo caso il danno primario non è modificabile, il danno secondario sì, però oggi si tende a dire che si può aspettare il giorno dopo, perché a volte non abbiamo, oggi gli ospedali non hanno tutta l'attrezzatura, non la comprano tutta, per motivi economici tendono a chiamare l'esperto da fuori, il fornitore, vieni per piacere, abbiamo una frattura, puoi venire, sono le 11 di sera, sì, sto preparando, però cominciate, probabilmente arrivo domani mattina. Allora piano piano si tende ad andare verso la mattina, ma se c'è un peggioramento neurologico in attesa devi operare subito lo stesso, magari aspetti addormentato che ti portano i ferri, quella mezz'ora in più di anestesia può servire poco al paziente, però potrebbe servire la ferita a cicatrizzare meglio, vediamo dove sanguina, ci orientiamo più. Personalmente io tento a farli sempre la notte. Fino adesso mi pare che erano sempre fatti di notte, sì. Però molti di noi tendono a preavvisare, a dire al medico di guardia stai attento, quindi che non peggiora, sta muovendo bene la mano, mi raccomando, sì. Però è un rimpallo al giovane che non sempre funziona. E quindi il danno secondario va eliminato anche col fattore tempo. Prima lo fai meglio è. Anche là è come la testa, cioè devi eliminare la pressione intorno al midollo, devi eliminare il sangue, devi eliminare il danno ischemico, per cui devi evitare che abbia disturbi respiratori. Quindi voi sapete che dopo un trauma, inizialmente anche la parte che diventerà spastica, che significa spastico? Chi lo sa dire? Chi me lo sa dire? Danno piramidale, quindi la spasticità può comportare un aumento della tono. Quindi diciamo, però anche se per esempio io ho un danno a D5 come questo ragazzo, che non ce l'ha comunque, se ce l'avesse, diciamo di un altro ragazzo, avesse una paraplegia, inizialmente sarebbe spastica o flaccida? Flaccida, sempre. C'è la diastasi. Sotto, nel tempo, compare la spasticità ed è la vostra arte quella di educarlo a un certo tipo di spasticità in estensione che favorisce poi la deambulazione, mentre la spasticità in triplice flessione è completamente, diciamo, un danno. Quindi il danno secondario produce la morte cerebrale, vedete? Allora, danno del midollo, vengono rilasciati fattori tossici, muore la cellula, però anche attraverso l'edema, l'ischemia e l'anossia produce morte cerebrale. Inoltre, come dicevamo prima, c'è la rottura della membrana e quindi c'è una rottura della barriera ematoencefalica. Tutto questo non favorisce il recupero del midollo, che è molto più difficile del cervello. Il cervello ha tante aree, possiamo dire che siamo poco cervello, perché siamo molto poco. Ci sono tante aree cerebrali che possono ricaricare. E quindi la prima cosa, chiaramente, noi oltre all'immobilizzazione, perché per quanto riguarda anche il danno parziale, il movimento del collo può essere pericoloso se parliamo di cervicale. Noi immobilizziamo, allora se è dorsale o lombare sulla tavola spinale, delicatamente, se è cervicale con il collare con l'appoggio occipito metoniero, e poi il cortisone. In questo caso è l'unico caso in cui c'è una trauma in cui il cortisone è consigliabile, perché diciamo che qualcosa riesce a fare, riesce a limitare i danni midollari, l'hanno dimostrato. E questo è il trattamento, no? Facciamo la decompressione, quindi generalmente si fa per via posteriore. Queste sono le parti che noi andiamo a trattare. A volte liberiamo le lamine, liberiamo la dura, stabilizziamo e quindi mettiamo delle barre viti per tenere in modo la cosa. E poi quella che è la vostra grande aiuto, la mobilizzazione immediata, evitiamo il piegamento del cubito, evitiamo le contratture, evitiamo le trepotrombosi, evitiamo la depressione. Va bene, con questa ultima serie che terminiamo, sono le forme che dicevamo, quelle classiche, l'ernia cervicale, l'ernia del disco dorsale, l'ernia del disco lombare e quello che un tempo non conoscevamo, la stenosi del canale vertebrale. Pensate che quando abbiamo cominciato noi, sempre con questo benedetto ago per fare diagnosi, dovevamo pungere la regione lombare. Pungevamo e dicevamo è una puntura lombare secca, o in inglese dry tap. Allora dicevamo c'è una patologia di incerta natura, per cui questo paziente cammina 10 metri, poi ha la claudicazio, si deve fermare, si deve riposare e poi ricomincia altri 10 metri e poi torna ai dolori e poi si riferma. Misterioso. La puntura lombare non faceva altro che aumentare i dolori, non ci faceva fare diagnosi e si operava. Si operava, che si faceva? Si faceva una puntura lombare qua, diciamo sotto al cervelletto, puntura spinale, e si iniettava questo benedetto olio, chiamiamolo benedetto olio, qua, e lo facevamo scendere fin dove si fermava. Da quel punto dove si fermava in giù operavamo, toglievamo le lamine, aprivamo tutto, vedevamo la dura, aprivamo la dura, appena si apriva la dura uscivano le radici come gli spaghetti e dicevamo, vedi, ma questo è scritto sui libri, mica chiacchiere, è un paziente che è nato con le radici lunghe e si chiama la sindrome delle radici ridondanti. Non avevamo capito niente. Invece era l'osso che era troppo stretto, che quando pungevi trovavi pochissimo liquore perché le radici erano tutte compattate dentro. Se io ho un anello grande vertebrale, le radici sguazzano, io pungo e trovo liquore. Se ho nasco, come nascono alcuni tarchiati, che hanno più forza da ragazzi perché sollevano i pesi, sono robustissimi, le ossature robuste, tarchiati, hanno i nervi molto serrati dall'osso. Quando crescono di età, l'osso tende a crescere come le pozze di calcificazioni, per cui aumenta ancora questa ristrettezza. Se tu fai la puntura lombare non trovi il liquore. E le radici vogliono avere spazio. Allora noi adesso che facciamo? Adesso noi liberiamo l'osso, liberiamo le radici dall'osso e basta. Ma non è che apriamo la dura per vedere che c'è la radice ridondante. Non c'entra niente di ridondante. Non devi aprire perché tu fai dei danni enormi la dura. Non devi mettere le radici nervose a contatto con l'esterno. La natura le ha protette dalla dura, con la dura, con l'aracnoide. Sapete l'aracnoide? Doppia membrana che contiene liquore. Non è che tu apri ed è la stessa cosa. Il paziente ne risentirà. Quindi non apriamo più la dura, apriamo l'osso. Ora, l'abbiamo capito bene con la risonanza magnetica e con la TAC. Però lo si apre e lo si fa ricalcificare il lato. Sì, non si ricalcifica più, perché l'osso lo togliamo proprio. Non tutti fanno che tolgono tutto l'osso, alcuni lasciano tutta la parte mediana con tutte le spinose, i legamenti interspinosi, e che vengono poi collegati al muscolo quando li chiudi. Però sotto non ci deve stare osso che spinge contro il sacco durale che vuole stare senza l'osso addosso. Quindi si toglie l'osso, si mettono delle barre. Si mettono? Delle barre. Le barre le mettono alcuni, noi non le mettiamo più. Perché se sono molto anziani hanno già una notevole, artrosi che blocca le vertebre, va bene? Se sono giovani, effettivamente, per non incorrere sotto il giudizio, non del fisioterapista, per carità, però anche del fisioterapista di tempo fa, che non tranquillizza, ma del radiologo o medico legale o avvocato, quando tu non metti le viti nel giovane, lo fai mettere in flesso estensione, hai una micromobilità. Siccome torniamo al discorso di prima, abbiamo un periodo di dolore da... Sì. Allora, se uno questo concetto, diciamo, si sta diffondendo, ma non è patrimonio di tutti, ecco perché attraverso la scuola noi cerchiamo di anche di dire questa possibilità, perché poi esistono tante altre possibilità, ma questa c'è sempre. Vedendo questo piccolo movimento, il radiologo lo segnala, l'avvocato ti fa causa, non hai messo le barre. Allora, nel giovane noi, piuttosto che mettere le viti, perché poi che cosa succede con le viti? Tutto il movimento che tu vuoi fare con la colonna lombare, lo perdi, ma lo fai soltanto a livello sopra la vite. Quindi stressi molto quel segmento che non hai additato. Perché non ti puoi permettere il lusso di additare dalla dodicesima dorsale fino alla sacrale. Tu avviderai la seconda, terza, quarta lombare e c'hai la L1 e la L5 che sono iperstressate. Non subito, ma dopo sì. Allora, noi siamo dell'idea di lasciare una grossa quantità di osso non più a contatto con la dura, attraverso l'apertura dei forami, liberando le radici dall'osso, perché la parte dolorosa del paziente è sulla parte radicale, non sulla parte centrale. È là che sta il ganglio spinale ipersensibile. E da, aprendo i forami intervertebrali, voi avete l'anatomia davanti agli occhi, immaginate, noi tangenzialmente seghiamo l'osso con il microscopio fino ad andare dalla parte opposta. Quindi non c'è più osso che tocca la dura, né sulla radice né sull'altra radice. Però la statica della colonna è mantenuta. Se tu è giovane di 40 anni che è tacchiato e che fa il muratore e che non cammina più, gli fai questo, lui cammina, continua a fare i movimenti suoi senza dover mettere le viti. Ma non tutti sono d'accordo, c'è da discutere ancora. Si lavora solo sui meduli per tentare, ma non sulle. Si lavora parzialmente sulle faccette, perché non si tolgono le faccette, ma si aprono però. Tu sai che i neuroforami stanno immediatamente dopo il peduncolo. Le faccette stanno leggermente più caudali. La parte più vicina al peduncolo, quella parte di faccetta, viene tagliata, però non tutta. Sì, non continua tranquillamente a dire. Però, ripeto, c'è molta letteratura nel campo, eh. Piuttosto è stimolata dai tribunali, perché sono tanti i pazienti e tanti hanno i fastidi dopo un anno o due. Le cellule devono allungarsi, ci vuole tempo. Ti fanno causa, voi potete mettere una parola buona, diciamo, per dire guarda che è sempre così, ma non tutti hanno la cultura che potreste avere voi, che venite da una scuola, altri sono anziani, eccetera. Quindi comunque arriveremo al punto di, noi facciamo dei consensi informati, adesso spieghiamo la situazione, però non tutti i chirurghi che ci hanno da fare molto si mettono a spiegare questi particolari, ma ti possono creare dei grossi problemi. Il lavoratore che è autista, che non ce la fa, sta seduto, eccetera. Oggi c'è. Mo' ultimamente hanno fatto un'agenzia di mediazione. Per fare causa in questo campo devi passare attraverso i mediatori, non puoi più accedere direttamente al tribunale. Perché sono troppe, e magari poi a distanza di 5-6 anni, quando finisce la causa, stanno perfetti, però la vincono pure, perché se c'è la micromotilità, la vincono pure. Se non metti le viti, la micromotilità nel giovane c'è stata. Va bene, quindi quando c'è una stenosi, avete capito quello che ho detto, penso, no? Non è molto, è il campo vostro, voi avete, questo è il pane vostro. Pazienti che stanno a 5-6 anni sotto le mani vostre per questo problema che mi fa male ancora, eccetera, eccetera. E quindi quando abbiamo una mielopatia cervicale abbiamo una spasticità, no? Quindi abbiamo un schiacciamento del primo motoneurone e quindi le gambe sono spastiche, però se la stenosi mi comprime la radice anche che va a C5, avrò una flaccidità, una debolezza, una ipoeflessia all'arto superiore. La radicolopatia è la compressione della radice che mi dà ipoeflessia. Va bene, questo è il dolore lombare, voi sapete che là il trucco da, per noi chirurghi da dire sempre è che quasi mai il dolore lombare viene dai reni o da linfonodi leucemici o da cisti parassitarie del fegato o da tumori intestinali o da aneurismi della aorta, quasi mai. Io ne ho visti passare, non in mano mia, due o tre di malattie veramente brutte, che era una classica sciatica, e c'era pure l'ernia. In qualche caso l'hanno operata e dopo un paio di mesi è scoppiato il male. Sono figuracce. Il dolore lombare può essere di origine medica ed è quello importante da studiare, perché è salute. Può essere un ascesso tubercolare, può essere di tutto, ma è rarissimo. Quasi sempre si tratta di ernia, quasi sempre si tratta di stenosi, sempre c'è la componente muscolare, sempre. C'è sempre la contrattura muscolare che è dolorosa e che supera a volte il dolore sciatico. C'è la sciatica, ma c'hai anche un gran dolore qua. Poco c'entra la sciatica, è tutto dolore riflesso muscolare, che è curabile quello. Se non c'è danno radicolare, cerchiamo di non operare questi qua. Cerchiamo di risolvere il problema lombare, escludendo le sciatiche mediche e curando il dolore lombare localmente, con le vostre tecniche. E quindi, il dolore, grossolanamente abbiamo detto che il riflesso roturio mancante è un'ernia L4 L5, il riflesso achilleo mancante è un'ernia L5 S1. Il disturbo di flettere, non riesco a flettere il piede verso il dorso, è un'ernia L4 L5. Non riesco a spingere il piede verso il basso, è un'ernia L5 S1. Poi ci sono mille variazioni a seconda di come si sposta l'ernia. Addirittura nei casi terribili l'ernia non è più anteriore ma viene dietro, addirittura è come se ci fosse una specie di tumore, diciamo, che sta dietro alla spinosa, è un'ernia che ha girato. C'è di tutto. Vedete? Questo abbiamo detto è una protesi spinosa. Vedete, se uno nasce con l'osso più alto, queste radici stanno ancora più compattate e non c'è il liquor. Questa è la parte algica, dolorosa. Se noi sediamo questa parte con microtrapano e con gli ultrasuoni, questo è il disco. Se noi sediamo questa parte, seghiamo questa parte, poi andiamo dall'altra parte, seghiamo questa parte, seghiamo questa parte, lasciamo tutto in ordine e diciamo la funzione di acqua che tiene, sì, tiene la faccia. Sì. Noi praticamente con microscopio e con abbiamo una sonda ultrasonica che taglia l'osso, una specie di L protegge il nervo e sega l'osso, oppure una trapano diamantato, quindi il diamantato se trova la dura non la sega, la scalda un po' ma non la taglia. Invece l'ossigona, che è fatta come diciamo come una fresatrice, taglia quella, non lo usiamo mai sull'osso vertebrale. Noi facciamo così, apriamo qua, scopriamo la radice, la seguiamo nel forame, no? Quindi questa parte qua viene un pochettino segata, ma non cambia niente nella statica della colonna, perché vogliamo andare qua. Questa parte qua viene un po' tolta per poter vedere meglio il ganglio. Qualche volta la lasciamo, però non sempre la si sega. Vedete, questa è un'ernia discale, la radice è schiacciata, ecco l'ernia discale. Vabbè, questa sono i vari livelli che ormai già ben detti. Nel caso cervicale possiamo avere sia la miopatia da qua sotto. Siccome non è una cosa acuta, avremo subito la spasticità, non avremo la flaccidità. Se fosse invece una ferita, avremmo la flaccidità sotto. Dipende dalla diastasi, dipende dalla velocità con cui si struttura il danno. Va bene? Sì. C6 abbiamo detto il dolore, la mancanza di riflesso precipitale, C7 la mancanza di riflesso precipitale. E questa qui è quella che vi dicevo io, quando abbiamo una stenosi importante abbiamo la sindrome della caudal. Quindi tutta la cauda che viene compressa. Sapete cos'è la cauda? Sì. Quindi debolezza alle gambe, non regge la pipì, eccetera, eccetera. Allora, questa vi ho detto che la classica sindrome della cauda, non totale, porta alla claudicazione neurogena, che è identica alla claudicazione di quelli che non hanno più il sangue che va alle gambe. Per esempio, se uno c'ha l'aterosclerosi della aorta, non arriva sangue alle gambe, camminano un po' e poi c'hanno dolori. L'unica differenza tra queste due è che quando, se c'è l'aterosclerosi, alzi le gambe di questo paziente che ti dice che non cammina più bene dopo 10 metri, generalmente si invalidiscono perché è poca la forza delle arterie, altrimenti è indistinguibile da quell'altra. La stenosi cervicale è come quella lombare, procura va bene. Da questo momento in poi facciamo riepilogo un'altra volta. Questi slide ci bisogna che mi date una penna nuova, perché questo è più il vecchio e non ce la fa a correggere.